Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. 1944. Mazzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica, il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Montesole e Marzabotto si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Civili, tutti comunisti. Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare. Capo dell'operazione è Walter Raeder. La mattina del 29 settembre 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli dei fiumi Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce e uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno viene risparmiato. Dopo sei giorni di rastrellamento e di violenze, 1830 persone perdono la vita. La testimonianza di Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume e alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati. Passò una prima squadra di nazisti il giorno 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò una seconda squadra. Presero tutti quelli che poterono. Li misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitraglie. Poi li bruciarono con le fascine e con l'altra roba che avevano loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia prima di essere massacrati, una mia figlia sposata col suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nazifascisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto. Essendosi subito accorto che così si era tradito, fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro. Anche mia figlia, col bambino al collo. In molti si ricordano del massacro di Mazzabotto Montesole, come Aldo Gamberoni. Mentre fuggivo, a Cadotto cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia tra partigiani e SS. Vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso, sul sentiero per Cadotto, più in alto, di fianco, vidi passare una colonna di civili, quasi tutti donne e bambini. Andavano in fila, avevano con sé fagotti e valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi. E mi sentii con più speranza. Pensai che li portavano in campo di concentramento. Dopo un'ora, invece, tutto d'un colpo, mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola. Ma non sentii spari. Li avevano massacrati tutti sotto Pornarino. Corniglia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Mazzabotto. Che fu

si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante. Poi che cosa successe in quel momento? Ecco, perché siete stati salvati? Una cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria di avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice, guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri sei parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti, infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri sei che erano parenti e amici. Suo padre era un partigiano? Sì. Come tutti quelli che avevano in quella situazione si comportarono in una determinata maniera, aiutavano i partigiani, cercavano quindi di sostenere la resistenza. Dopo la pausa, racconto del giallo e nero sulla strage di Mazzabotto Montesole. Giallo e nero. La strage di Mazzabotto Montesole è la più grave di quelle realizzate dai nazifascisti in Italia nel 1944. Solo molti anni dopo, in seguito al ritrovamento dei fascicoli nel cosiddetto armadio della vergogna, si sono potuti aprire i processi e condannare i responsabili dell'eccidio. Il 14 gennaio 2007. Il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. Sono Paul Albers, 88 anni, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Josef Baumann, 82 anni, il maresciallo delle SS Hubert Bickler, 87, i sergenti Max Reutheimer, 85, Max Schneider, 81, Heinz Fritz Träger, 84, Georg Wache, 86, Helmut Wolf, 84, il maresciallo capo Adolf Schneider, 87, il soldato Kurt Spieler, 81 anni. Hubert Bickler è uno dei nazisti condannati per la strage di Mazzabotto Montesole. Si difende così al microfono di Raffaella Calanda. È una brutta cosa questa sentenza, soprattutto perché non posso farci niente, ma io non ho niente a che fare col massacro. Era semplicemente la guerra. Tutta la guerra è stata una violenza brutale, dall'inizio alla fine. Noi non sapevamo nemmeno dove fossimo, in quale località esatta ci trovassimo. Ci hanno portato lì su un camion, siamo arrivati sul campo con il compito di respingere l'attacco. Erano gli ordini. Pensi, io non so nemmeno il posto dove sono stato ferito. Ora io voglio interrompere la conversazione, vorrei solo avere la mia pace. Albert Piepenscheider era un autista della 16ª divisione nazista. Elisabetta Fusconi ha cercato di capire se lui era a Mazzabotto nel settembre del 1944 e se ricordava la strage dei civili. Buongiorno, sono una giornalista di Radio 24 dall'Italia. La chiamo per la vicenda di Mazzabotto in provincia di Bologna. Bologna? Mazzabotto? Bologna? Mazzabotto? Non riesco a ricordare se c'era. Ma lei era nella 16ª divisione, giusto? Sì, nella 16ª divisione, corretto. E questa divisione si è trovata a Mazzabotto? In Mazzabotto, sì. Quindi lei si trovava lì? Quindi? Questa divisione si recò a Mazzabotto per cercare i partigiani, ma si imbatté soprattutto in civili. Dunque, quando io ero là ero un autista. Di più non posso dirle, io non c'ero in quel momento. Ma perché dicono che lei si trovasse a Marzabotto il giorno della strage? Dove ero io? Chi lo dice? Comunque quel giorno non c'ero. Non credo ci fossi. Perché? Che cosa è accaduto? Un massacro di civili significa che lei non l'ha visto? No, no. No. Non sa quindi che più di 800 persone vennero uccise a Marzabotto? Non ne so nulla. Che ordine aveva ricevuto la 16ª divisione? Io ero un autista di automezzo. Non avevate l'ordine di cercare i partigiani? Ma le dico di no, non capisco che cosa vuole. Si sente con la coscienza a posto per quel che accadde nell'ottobre del 44 a Marzabotto? Ho la coscienza a posto in maniera assoluta perché non ero lì. Non conosco quel posto, posso solo dire no a tutto. Ma quindi dove si trovava quando era in Italia? Ero nella 16ª divisione, mi ricordo solo di Alfonsine, vicino al mare, è l'unico nome di località che ricordo. Ma era lì con Walter Reder o Albert Meyer? Non li conosco. Strano, perché eravate nella stessa divisione. No, non li ho mai visti, non la posso aiutare. Cos'altro ricorda di quando era in Italia, quindi? Guidavo, il fronte non l'ho visto molto, ero sempre su un'auto, avanti e indietro, non la posso aiutare ulteriormente, davvero. Perché si dice che la 16ª divisione fosse molto spietata? Sarà anche stato così, non lo so, io ero un guidatore, non le posso dire altro, è già passato tanto tempo, io ho più di 80 anni. Non teme per il processo? Non ho visto né sentito niente. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle inchieste sulle stragi nazifasciste in Italia. De Paolis ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove. Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento dei fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati e quindi la fortuita scoperta nel 94 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente. E la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge preveda, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli perché dico si non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più. Da molti anni a Mazzabotto si conserva la memoria della strage. L'estesa area è stata trasformata in parco storico regionale, il Parco di Montesole, sia per l'interesse ambientale che per mantenere la memoria storica della Resistenza. Nel 2002 è stata istituita la Scuola di Pace di Montesole per promuovere iniziative di formazione e educazione alla pace e alla convivenza pacifica fra i popoli. Il premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo definì l'eccidio di Mazzabotto e Montesole il più vile sterminio di popolo. Giallo e nero. Un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.